spagnolo, ma si risale col pisello. Minchia. Di uno a Calisco, c'è due pezze, sembra due paraurtica, 327. Ciao a tutti, ciao. Bloccati. Mi che disgraziato, non volevo fare stare 5 minuti, nulla, non si ha niente da fare, ma che fanno su di te stanotte. Poi ti lamenta che gli altri non entrano, e poi lui il primo andasse. Ah, ciao, se mortaci tu là, cambiamo discorso, adesso prendere il PC, va, che intanto diventa una paranoia. No, no, no, ma, finito. PC non le voglio più sapere. Yes. Ok, ci siamo qua, io e Antonio lo parlavo di gnocca. Certo, vi fare vi piace, eh? Certo. Ancora a me mi pareva che cosa pareva male. Sì, sì. Io la togliamo la volta e cazzo le male. Aspetta che devi subito, ma chiedi a quella, poi chiedi a quell'altra. Detto, se lo dovete pagare voi a me. No, va bene, Natali, se devi far cosa per far quello di nuovamente, bisogna mandarci a fanculo. Blocco. Bebe. Io c'ho un coso. Oh, via. Ma aspetta, vedo il sapore. C'è la moneta staccata. Mi ha interrotto 2 secondi. Perché ho rifiato il petto, ma non va. Se lo faccio controllare il sapore, c'è un cucchiaio di tempo, non sempre cucchiaio più calmo. Così il sistema è nuovo, mi ha tirato dei telecomandi mio nipote, senza, mi ha staccato una molletta, io ho rimesso però non posso sapere qualcosa, c'è troppo da tenere sempre un tipo calmo, così me lo guardi e faccio vedere cosa ho toccato io. Sì, quello che ho detto forse. Aspetta un attimo, sono fuori. Natalino, ma che sei? Natalino. Bebe, ne muore. No comment. Vale. Ma praticamente sta mandando a fanculo, Antone. Non lo so. Capisco che c'è una cosa per il computer, ma cosa c'è a voler fare nel computer, non lo capite, quando non lo so. Io sinceramente non ne ho, non mi nervosisco. Non fatto solamente una cosa, quando ho avuto quel problema, sto calmo, tranquillo, non riesco a farlo. Ho provato, glielo porto a casa sua, se l'ho già lui, me lo porto già pronto e basta. Mi sono fatto così. Invece non... Cioè, tra amici si fanno dei piaceri, non è che mi riempisco più di tanto, la verità. No, vabbè, però, cioè, stavamo modulando, cioè, bisogna di... cioè, scaricarci addosso a noi i problemi che aveva lui col PC, minchia. Se un attimo vado a UDH piccolino, altrimenti fa piscio il panorama, un secondo, eh. Piscia, non c'è problema, fai con comodo. Quando torna Adriano, digli che io i problemi miei non li stavo scaricando addosso a nessuno, capito? Adesso sono tornato, mi ero spostato, però ho sentito quello che stava dicendo. I problemi miei non li ho scaricati a nessuno. Infatti ho chiuso e basta, non ho bisogno di parlare di altre cose. E appunto Natalizia, sarebbe meglio magari parlare di altre cose, no? No, sarebbe meglio parlare di altre cose, magari ci facciamo 4 chiacchiere, non c'è bisogno di chiudere. A me fa piacere fare 4 chiacchiere con te, lasciamo prendere gli ubriachi di bici, male. Comunque non ho caricato i problemi sui, cioè, davvero Natalizia, non so perché ti stai incazzando adesso. I problemi tuoi non hai caricato mica a me, a nessuno avete secca. Allora mi trovavi in sera, mi trovate, sale lui a casa tua e ti sistema il PC, e quanto va bene, io non ti capisco se sei nervoso, però ho capito per dire con nessuno, va, Natali, scusa. come sono rientrato. Sì, ho sentito, non c'è problema per quello. Tu sei stato per me, c'è una tagliola, la verità. A me fa intesto, lo stai dicendo tu. Poi non lo so. Devi tornare in sera. Dai, 2 minuti, ci siamo 25, così a posto e non ha più problemi. No, no, non è quello il problema, boh, magari in questo momento non c'è voglia di scambiare 4 chiacchiere con noi, che ne so. Io ho preferito di parlare di cose normali, no? Non di PC, però. Io voleva mettere un po' di ordine nel suo PC e lo sto aiutando tutto lì. Però se c'è stato un attimino di incasinamento lì che ha fatto quel PC, c'è bisogno di mandarci a fanculo, a fanculo per modo di dire, perché non c'è detto fanculo veramente. Natalaus, se abbiamo 4 chiaramenti. Niente da fare. Ehi, no. Capra c'è bravi motivi, logicamente. E meno male quasi 2 settimane non entravo io. Ho fatto un momento sbagliato, come si parla della rapina. Entro un momento giusto e c'era la rapina. Ma veramente non è successo niente. Semplicemente si è incazzato un attimino perché era un po' nervoso per altri motivi. Non si è trattato un momento sbagliato. Un momento sbagliato non è mai. Non c'è mai un momento sbagliato. Provate a parlare e chiarire. Ecco, c'è vero. Vabbè, aspetta un secondo. Io me la faccio su, prendiamo la birra. E poi rientro. Ma a questo punto già la dico, boh, fai dove vuoi, mo vedo se per caso rientra Natalino, rimango un po' in quel rito. Ti rientro, ti preoccupare, rimango un po' in bianco, così almeno ti dico le cose. Ok, quel rito per me.